Anche semplici elezioni municipali possono diventare storia in Palestina, soprattutto se le precedenti consultazioni risalgono a quasi 30 anni fa. 28 per l'esattezza sono gli anni trascorsi da quando gli elettori di Gerico, per esempio, hanno potuto votare per il proprio consiglio comunale. Facile comprendere dunque quanto il primo round delle elezioni municipali in Cisgiordania, il prossimo round a Gaza sarà alla fine di gennaio, possa essere stato vissuto come un evento appunto storico. Alta la partecipazione tra i circa 140.000 elettori chiamati alle urne per scegliere tra i poco più di 800 candidati suddivisi in 26 centri urbani i propri rappresentanti. Tra i 26 centri urbani è compresa Gerico, ma anche Abu Dis, il sobborgo di Gerusalemme Est, che in alcuni piani di pace era stato indicato come la sede della prossima capitale dello Stato palestinese. Tanto alta la partecipazione dalle 7 di questa mattina, ora di apertura dei seggi, che in molti si sono sottoposti a file estenuanti, dall'ora e mezza anche sino alle 4 ore, per poter mettere la propria scheda nell'urna prima della chiusura dei seggi alle 7 di stasera. Nessun incidente segnalato sino ad ora in quella che tutti gli osservatori definiscono come la prova generale delle presidenze palestinesi del prossimo 9 gennaio, nonostante la consultazione riguardasse poche decine di centri urbani in Cisgiordania, infatti è apparso subito evidente che i motori del processo elettorale che culminerà tra poco più di 2 settimane si siano accesi proprio oggi. Dal punto di vista logistico, anzitutto con la preparazione di un complesso apparato di urne, schede, scrutatori, osservatori internazionali e quant'altro, in un territorio ancora controllato dall'esercito israeliano in cui i centri urbani si trasformano spesso in isole senza comunicazione tra di loro. Dal punto di vista politico, poi, a votare oggi è stato per esempio anche il premier Abu al-Al secolo Ahmed Correia, abitante di Abu Dis, che ha usato l'occasione delle votazioni per esprimere una posizione più ferma rispetto a quella dell'altro leader dell'attuale diarchia palestinese, il potenziale futuro presidente Mahmoud Abbas, nome di battaglia Abu Mazen. Correia ha intanto definito le elezioni municipali il primo passo verso la creazione dello Stato palestinese e ha poi espresso tutti i suoi dubbi sulla conferenza di Londra sponsorizzata da Blair e appoggiata con tutta la sua forza appena 2 giorni fa da Abu Mazen in occasione della visita del premier britannico a Ramallah e del suo omaggio, seppur affrettato, alla tomba di Arafat. Per Correia, invece, la conferenza del prossimo marzo, alla quale Israele ha già detto con fermezza che non parteciperà attraverso le parole del suo premier Ariel Sharon, non si può qualificare come una conferenza di pace ed è di questo che hanno bisogno i palestinesi. Se questo sia un gioco delle parti all'interno della diarchia palestinese o il primo segno di un dissidio, sarà la cronaca a dirlo. Intanto il dato importante è che oggi in Palestina il potere sia passato per qualche ora dalle armi alle schede, anche se solo per un consiglio comunale. Da Gerusalemme, Paola Caridi per Lettera 22.